Capitolo 8. In cerca di guai. Luglio 1949. Molti non desiderano ricordare le loro sofferenze. Io invece mi preoccupo di non dimenticarle. Non è misericordioso dimenticare, cancellare le vive cicatrici del ricordo con nuovi tessuti privi di sangue. Preferisco la ferita aperta, il pungolo proficuo del dolore ancora fresco, ma ahimè, vano è il mio desiderio, poiché anch'io dovrò sottomettermi alla guarigione. Perciò devo affrettarmi prima che la verbosità della spiegazione deturpi il momento vissuto e ora perduto per sempre. Come ricordo bene la maniera di guidare di Mark, le sue mani, che dovevano reggere la mia vita, che gli avevo donato, erano gentili con tutto e tutti. Uomini e cose diventavano docili al suo tocco. Quella era la sesta volta che ci incontravamo ed erano le 2 del mattino. Dopo l'incidente sulla praia era venuto 2 volte a trovarmi all'ospedale. Eravamo rimasti in piedi nell'atrio, l'uno di fronte all'altra, sotto gli occhi di tutti. Io impacciata nel mio camice bianco, le mani in tasca, lo sguardo abbassato sul pavimento lucido. E lui tranquillo, a suo agio, gli occhi fissi su di me. Non ci eravamo detti molto, poiché ci sentivamo troppo emozionati. Invece ci scrivevamo assurdi bigliettini allegri. La facilità di scrivere che avevo a scuola mi è ritornata, scriveva Mark. Che cosa avete che il mio giornale non ha e che mi fa desiderare di scrivervi anche quando non ho nulla da dirvi? Oh, credo che dipenda dalle macchie solari, rispondevo, avendo appena terminato di leggere All Trivia. Le sue lettere cantavano nel mio cuore per tutto il giorno e il pensiero di lui, dal primo momento del risveglio, era così pieno di gioia che non sentivo la sua mancanza fisica. È così. Soltanto perché non soffrivamo, soltanto perché non sentivamo la mancanza l'uno dell'altro, continuavamo ad illuderci. Forse eravamo ipocriti, ma comunque ipocriti convinti. Faceva molto caldo e quella sera Mark aveva proposto una nuotata a mezzanotte, ma a quell'ora io avevo ancora da fare e così fu soltanto alle 2 del mattino che salimmo in macchina, dirigendoci a Deepwater Bay, a 20 minuti dall'ospedale. Una sottile luna di opale trascinava la sua scia di carta stagnola attraverso la baia. Poche stelle stanche erano sparpagliate nel cielo. Una lieve nebbiolina ricopriva il mare e l'acqua era pesante come olio, salata e tiepida quando vi entrammo. Dato che ci conosciamo da più di un mese, non credete che potremmo incominciare a chiamarci per nome, lasciando da parte i titoli? Mi disse Mark. Sta bene, vi chiamerò Elliot e voi mi chiamerete Han. Ma io intendevo il nome di battesimo. Come volete. Dopo un breve tuffo ritornammo alla macchina. Faceva più fresco ora. I miei capelli erano appiccicosi e bagnati, poiché non porto mai la cuffia in acqua. Ci prese una strana sensazione che era di disagio e di attesa al tempo stesso, e contrariamente al suo solito, Mark non avviò subito il motore. Come sempre sedevamo lontani l'uno dall'altra. Potrei avere una sigaretta? Chiesi. La richiesta potrebbe sembrare innocente, invece furono proprio queste mie parole a forzare gli avvenimenti. Intuivo e fingevo di non sapere, illudendomi disonestamente. Nel profondo del cuore sapevo benissimo quello che stava accadendo tra noi, ma la mia mente si era troppe volte rifiutata di discuterne perché potessi affermare di esserne pienamente cosciente. Mark mi accese la sigaretta e poi, quando la breve fiamma del cerino si spense, mi prese la mano destra e la tenne per un momento. Vedendo che non la ritiravo, si chinò su di me per baciarmi la guancia. Poi, dolcemente, con un dito, mi fece volgere il viso e baciò le mie labbra chiuse. Mi lasciò tosto e accese il motore. C'è un proverbio che dice: non svegliare la tigre che dorme, osservai mentre la macchina si avviava. Mark continuò a guidare in silenzio per circa mezzo chilometro, poi si fermò. Quando ti ho baciata, non avevo intenzione di farlo, disse con la sua solita voce dolce e pacata. È stato un impulso improvviso, tuttavia ti ho prima preso la mano e se tu l'avessi ritirata non ti avrei baciata. Ma sarebbe stato scortese da parte mia. Fu tutto quello che trovai da dire. Allora scoppiamo entrambi a ridere fino a farci venire le lacrime agli occhi ed un tratto mi trovai fra le sue braccia. La sua bocca era tenera e autoritaria e il mio cuore batteva così forte che potevo sentirlo. Oh, sussurrai scioccamente come una ragazzina, che sarà di me ora? Hai sapore di acqua di mare? Mi rispose Mark. D'un tratto lo odiai e un selvaggio desiderio di distruzione mi invase. Avevo la gola secca, le mascelle serrate, la pelle d'oca per tutto il corpo. Che tu possa essere dannato e bruciare all'inferno per 10.000 anni per avermi fatto questo, esclamai. Ma ero ancora tra le sue braccia, vicina alla sua bocca, rigida come una morta. Mark si ritrasse da me lentamente e deliberatamente e rimise in moto la macchina. Quando ci fermammo di nuovo, mi parlò con dolcezza e con calma. Poco fa, mentre sedevamo sulla spiaggia, pensavo che sarebbe stato sempre così. Per tutta la vita dovrò stare a 1 metro di distanza da lei, mi dicevo, perché è inavvicinabile. E poi ti ho baciata, sebbene non ne avessi affatto l'intenzione, prima di prenderti la mano. Mi hai già dato tanto e solo conoscerti è per me felicità. Perché dovrei volere di più? Ma a me non interessava quello che stava cercando di spiegarmi, mi importava soltanto di ciò che stava accadendo a me ed era terribile. Ascolta, tu non sai nulla di me, credi che tutto sia facile, eh? Bacio una donna in automobile e non significa nulla per te. In fondo non si tratta che di un bacio, ma per me è diverso, mi sento male, provo un forte senso di nausea, non posso spiegartene la ragione perché non lo so nemmeno io. È come se mi trovassi su un battello che si rovescia, e dopo tutto anche un semplice bacio significa qualcosa, perché persino nel vostro mondo le avventure d'amore cominciano così. Mark non rispose subito e continuò a guidare per qualche minuto in silenzio. La prima volta che ci incontrammo mi chiedesti se io dicevo sempre la verità, disse infine. Ora sono veramente sincero. Non faccio che pensare a te, non riesco a liberarmi del pensiero di te, non sono mai stato tanto ossessionato in vita mia. Se tu fossi psichiatra potresti forse consigliarmi il sistema migliore per liberarmene. Anch'io non faccio che pensare a te. Mark si comportò in modo ammirevole e quando ci fermammo davanti all'ospedale appoggiò le belle mani sul volante e disse tranquillamente, quasi con freddezza. Mi sembra proprio di essere innamorato di te. No, non credo, risposi. Non è che un'infatuazione, un'isola. È come una nave. Dove mai avevo già sentito questo paragone? E tutto succede rapidamente su una nave. Hong Kong è tanto bella, penso che tu abbia bisogno di un'avventura d'amore. Oh, questo no. La tua diagnosi è sbagliata. Non ho bisogno di un'avventura, ne ho appena finita una. Sono venuto a Hong Kong con l'idea di prendermi una donna, come fanno tutti, e infatti me la sono presa. No, no, non ho bisogno di un'avventura. Oh, esclamai, divorata da una momentanea curiosità. Di che nazionalità era? Inglese, rispose Mark brevemente, e si trattenne appena in tempo dal soggiungere naturalmente. Comunque rimango sempre del mio parere, dissi, le mani strette intorno alle ginocchia, lasciando che il medico in me avesse momentaneamente il sopravvento. C'è in te qualcosa di non amalgamato, eppure sei tanto forte e gentile al tempo stesso, ma forse, come quasi tutti coloro che ho conosciuto a Hong Kong, non sai che fare di te stesso. Forse sei in attesa di qualcosa che deve avvenire. Dentro di me sento che stai fuggendo da qualche cosa e tuttavia non ti manca il coraggio. E ora guarda quello che sta accadendo. Ritornai al mio problema personale, ben più importante per me. Mi hai messa in agitazione e io non voglio innamorarmi mai più. È troppo complicato e ne sono terrorizzata. Vedi, anche ora vorrei che tu mi baciassi, eppure ne ho nausea. Accidenti a te! Gridai, esasperata dal presentimento del dolore. Che cosa potrei cavarne se non un paio di bastardi? Questa volta Mark si arrabbiò davvero. È una menzogna, disse. Ritira quelle parole. È verissimo e non ritiro nulla. Si incomincia fingendo di scherzare, poi si dà la colpa all'amore. L'amore! Ripetei con sprezzo. In suo nome si fanno cose che portano alla rovina e io non voglio, capisci? Non permetterò a nessuno di rovinarmi la vita. E ostinata, ripetei. Quello che ho detto è vero e non ritiro nulla. A questo punto, dato che ci trovavamo davanti all'ospedale, avrei dovuto scendere e andarmene. Non ci saremmo più rivisti e non sarebbe accaduto nulla, ma naturalmente non lo feci. Non mi era possibile. Rimasi seduta, dov'ero, tremante, furibonda, cieca e angosciata. Sei molto onesta, disse Mark a bassa voce. Era tanto lontano dal vero che non potei impedirmi di contraddirlo. Non lo sono affatto. Se lo fossi davvero, scenderei da questa macchina e me ne andrei, ma non posso, perché malgrado tutto voglio che tu mi baci ancora. Beh, anch'io sono piuttosto bouleversée. Dimmi, perché l'altro giorno hai detto di essere tanto sicura che i nostri destini non hanno nulla in comune? Perché mi sembrava chiaro, ma difficile da esprimere, perché io sono cinese e tu inglese, perché tu sei un giornalista, e cioè soltanto uno spettatore, un osservatore non coinvolto nella rivoluzione dell'Asia, mentre io sono un medico, un tecnico, inevitabilmente preso nell'ingranaggio, con un dovere da compiere verso il mio popolo. E l'anno 21 tu andrai a Roma, anche se non ne avrai voglia. E io andrò in Cina, perché solo per questo ho studiato. Siamo entrambi pieni di convenzionalismi e non vogliamo una semplice avventura d'amore. E abbiamo entrambi dei figli. Oh no, gridai. Non c'è posto per noi, né nel tempo né nello spazio, in nessun luogo. Siamo condannati prima ancora di cominciare. Non illudiamoci, Mark. Ma Mark si rifiutò di credere che non fosse possibile trascinare il destino per i capelli e che un incontro fortuito non significasse nulla. Non complichiamo le cose semplici, non cerchiamo di rendere facile quello che è difficile, disse. Stiamo a vedere quello che succederà. Può darsi che ci sia un posticino per noi due al mondo. So benissimo quello che accadrà se continueremo a vederci. Diventerò la tua amante e odierò te e me stessa. Ma perché? Le sue mani delicate stavano ancora immobili sul volante ed io, che ho sempre avuto paura delle mani degli uomini, non temevo le sue. Perché io non sono normale. Gli uomini mi hanno sempre ripugnato e il solo pensare a loro mi terrorizza. Ma non capisco. Oh, sono tutta sbagliata dentro, inumana, fredda. Una specie di barriera si frappone fra me e gli altri. Non che sia nata così, ma è così che sono ora, da tempo infinito. Tu sei il primo uomo che desidero, e pur desiderandoti, ti odio a un punto tale da sentirmi svenire. Mark mi ascoltava in silenzio e così potei dirgli quello che mi era accaduto e quello che mi avevano fatto. Ma anche quando ebbi finito non parlò. Nessuna esclamazione di pietà o di angoscia. Il suo viso rimaneva impassibile e le sue mani, che fissavo come ipnotizzata, appoggiavano sempre lievi sul volante. Se avessero rivelato il minimo tremito di pietà o di sorpresa, o se avessero istintivamente stretto il volante, l'avrei disprezzato. Ma non si mossero. Amor mio, da quanto tempo sei così? Mi chiese infine con voce ferma, guardando dritto dinanzi a sé. Da più di 5 anni. La mia famiglia crede che io voglia diventare un monumento di virtù. Attribuisce la mia riservatezza all'antica tradizione secondo la quale una vedova non deve più risposarsi, ma non si tratta di questo, non è virtù, bensì ripugnanza, e ora non chiedo che una vita senza complicazioni, tutta dedita al lavoro. È facile lavorare quando dentro si è morti, quando non si capisce nemmeno più che cosa sia l'amore, capisci? Sì. Il mio stato naturale è quello, diciamo, neutro. Il termine sesso non ha significato, come se per me non fosse mai esistito. Il mondo dell'amore mi è chiuso, non voglio essere toccata né ferita, voglio intimidire gli altri per tenerli lontani. Fino a questa sera le sole emozioni vive in me erano l'ira e l'ambizione, e ora mi hai baciata. E invece di fuggire, come avrai fatto un tempo, non posso staccarmi da te. Che accadrà? Che sarà di me? Non avevo più segreti. Quell'uomo possedeva ormai la mia vita più intima, poiché io stessa gliene avevo fatto dono, ma l'indomani mi sarei certo maledetta. Meglio che tu mi lasci stare, gli dissi amaramente. Meglio andartene finché puoi. Sono inumana e assolutista. Bada a te, Mark. Egli rifletté a lungo e in silenzio. Dal terzo piano dell'ospedale udii il pianto di un neonato, un lamentoso gemito animale di dolore. Mark si volse verso di me e mi scrutò intensamente per qualche istante. Ci penserò e poi deciderò per te, disse infine, con una dolcezza tale da spaventarmi. Non erano le parole che mi sarei aspettate in quel momento, ma da sempre avevo atteso l'uomo che avrebbe avuto la forza e il coraggio di pronunciarle. Da sempre. Così, umile per la prima volta da quando lo conoscevo, gli risposi: sì, tu sei il più forte e deciderai anche per me. Erano le 4 di mattina. La luna era scomparsa e il cielo era denso di nubi. L'aereo di Mark partiva alle 6 per Formosa, dove egli doveva fermarsi una decina di giorni. Ci lasciammo, senza nemmeno salutarci. Capitolo 9. Il pesce dorato. Luglio 1949. Prima ancora di conoscerlo avevo sentito molto parlare di Ernest Watts. La prima volta, ricordo, fu a una riunione di studenti universitari in cui i professori, conferenzieri, assistenti e mogli sembravano ansiosi di dimostrare il loro allegro e cordiale cameratismo. Ero capitata in quell'ambiente, come dovevo in seguito capitare in molti altri, ermeticamente chiusi agli estranei, grazie al mio avventuroso passato e alla mia duplice attività di medico e di scrittore. Quella sera ero stata invitata in veste di intellettuale e subito una delle numerose mogli si era congratulata con me per la mia traduzione di un libro di racconti cinesi. Naturalmente non li ho letti, ammise, ma so che sono splendidi. Scuotendo con indignazione la testa rotonda, un luminare dell'università mi trasse in un angolo per parlarmi di Ernest Watts. È una vergogna per l'intera colonia, brontolò fra un sorso e l'altro di cocktail. Per nulla adatto a occupare una posizione di tanta responsabilità. È davvero peccato che non l'abbiano trattenuto dov'era prima. Per il vostro bene vi consiglio di stargli alla larga, è un idealista. A quei tempi mi avveniva di confondere la rudezza con la sincerità e a Hong Kong tutti mi sembravano simpatici. Mai prima di allora avevo avuto occasione di incontrare tanti stranieri cordiali. Il Watts del mio amico e collega John Tam risultò assai diverso. È un tipo in gamba, mi disse con entusiasmo nel suo inglese stentato. Non sopporta gli sciocchi, ma può darsi che voi gli riusciate simpatica e addirittura feroce con coloro che non gli vanno a genio. Un caso di appendicite acuta mi aveva fatto ritardare di mezz'ora il mio appuntamento con Tam. Era pallido per l'ansia. Figlia mia, saremo in ritardo. Le donne non hanno davvero il senso del tempo. Watts è un tipo impaziente. E non può soffrire ritardatari. Dobbiamo spicciarci. Anch'io mi sentivo irritabile, cacciata di furia in un'automobile senza nemmeno aver avuto il tempo di incipriarmi il naso, quando la macchina si fermò nell'oscurità ai piedi di una serie di gradini tagliati nella collina, ne uscii nervosa, infelice e invasa da uno spiacevole senso di inferiorità. Salimmo i gradini a tutta velocità. Watson non ama aspettare. Per giungere infine a una casa di stile vittoriano, dalle pareti lebbrose di muffe e di umidità, fui spinta in una piccola stanza piena di tavolini, di sedie rigide e di scaffali colmi di libri. A uno dei tavoli sedeva Watts, insieme con una donnetta rotonda dagli occhi neri e a un giovane che risultò essere suo nipote. Bevemmo sherry in bicchierini così piccoli che l'orlo mi toccava il naso. Watts aveva occhi azzurri e capelli biondi tendenti al rosso. Sembrava uno di quegli uomini che vivono in uno studio e non portano mai cappello. E invece venne a sapere in seguito che portava sempre un Panama malconcio e non aveva mai posseduto uno studio. La donnetta aveva un paio di notevoli sopracciglia nere, un mento volitivo e l'agilità mentale propria a tutte le persone grassottelle. Quanto al nipote, non trovo nulla da dire sul suo conto. Mangiammo cibi cinesi e dovetti rispondere alle domande che mi faceva il nipote mentre due paia di occhi mi osservavano con tutta calma. Ero stanca e irritabile, mi sentivo a disagio. Ben presto la conversazione passò al pettegolezzo, secondo l'abitudine di Hong Kong. Il nipote sembrava essersi dato da fare per accumulare una quantità enorme di informazioni sbagliate. Parlò dei Palmer Jones. Già dai miei amici di Shanghai, Robert e Nora Hang, sapevo che i Palmer Jones costituivano una vera potenza nel mondo degli affari e erano, come suol dirsi, pezzi grossi. Il nipote pareva sapere tutto sul loro conto. Palmer Jones è così untuoso che l'olio gli esce dai pori. Si inchina, batte i tacchi, fa un salto di 50 metri per salutare il figlio di un famoso funzionario cinese o la concubina di un ricco commerciante malese, ma non appena si rende conto che non siete importante e che non avete aderenze, vi spreme finché gli servite e poi vi volta le spalle. Ah, questo è molto cinese. osservai ridendo. Comunque presto conoscerò anch'io i Palmer Jones. Lui è una vera personalità, Hong Kong, e molti lo trovano simpatico. Oh, ha le mani in pasta dappertutto, ma la moglie è peggio. State pur tranquilla che la troverete in ogni importante comitato. Nulla va avanti senza di lei. E giudica tutti dall'alto, non potendo dimenticare di essere stata missionaria un tempo. Sono entrambe autentiche colonne della società. Watts non parlava, ma io sentivo la sua presenza. Mentalmente gli giravo intorno, annusandolo come un cucciolo in ricognizione, e mi piaceva, ma il nipote era insopportabile. La conversazione cadde poi su Lucy Coe. Evidentemente la florida donnetta e il nipote non avevano molta simpatia per lei. Allora perdetti la calma, poiché erano ingiusti nei riguardi di Lucy, e Lucy era stata tanto gentile con me e mi aveva aiutata più di chiunque altro a Hong Kong. «Non sapete quello che dite!» esplosi. «Senza di lei io sarei piena di debiti e narrai loro dell'ostello rigurgitante di missionari e della bontà di Lucy. Probabilmente è stata tanto gentile perché ha bisogno di voi», osservò la zia. «Non siate così sciocca!» ribattei sgarbatamente. «È la prima volta che mi trovo a Hong Kong. Non ho aderenze né denaro né influenza alcuna e non appartengo a nessun ambiente definito. Come potrebbe aspettarsi qualcosa da me?» Watts si chinò in avanti. La sua voce era pacata ed un tratto compresi perché mi piaceva. Assomigliava a Mark Elliot. «Durante il vostro soggiorno all'ostello siete riusciti a scoprire che cosa adoperino i missionari come livre de chevet?» mi chiese. Risi. Questo era un argomento ben più piacevole dei pettegolezzi. «Leggevano soltanto romanzi gialli. Capitai fra loro in un momento difficile. Scacciati dalla Cina, non erano che naufraghi sbattuti dal mare su questa verde roccia del nostro esilio. Siete giunta in un mondo morto», egli disse. «Fa piacere sapere che morti e moribondi leggono storie di delitti per conciliarsi il sonno la sera». Sì, Watts mi piaceva, ma ormai avevo rovinato tutto con gli altri e così, goffamente, dopo qualche scambio forzato di cortesie, ci separammo. Ripensando a lui, mi dissi che il suo viso aveva un che di teatrale, ma che le sue mani erano sincere. Parlerò di lui a Mark, pensai, e li inviterò a cena insieme. Sarà divertente. Sono sicura che mi piaceranno. Watts mi è riuscito simpatico, dissi a Tam il giorno seguente, mentre eravamo intenti a ripulire le vasche dei pesci, ma ero di cattivo umore e non credo di essergli piaciuta. Tam non è solito usarmi particolari riguardi. «Non avete saputo ingranare coi suoi amici», mi rispose. «Siete entrambe donne alquanto decise e voi non avete peli sulla lingua. Non avete usato molta diplomazia, temo». Continuammo la nostra pulizia in silenzio. Versai nuovamente la sabbia e i sassolini sul fondo, ispezionammo le piante acquatiche e infine riempimmo nuovamente le vasche con l'acqua che vi avevamo tolto, aggiungendovi l'acqua piovana raccolta in un canaletto sulla collina e qualche goccia di cromato di mercurio per uccidere i parassiti. Poi, con grande precauzione, Tam prese un vaso contenente il suo ultimo acquisto, due pesci neri come fuliggine spruzzati d'oro, e lo calò nella vasca. Dapprima i pesci non si mossero dal vaso, poi, assaggiata l'acqua e avendola trovata di loro gradimento, guizzarono fuori. Sospirammo di piacere al vederli sfrecciare attraverso la vasca, verso la piccola lampadina accesa, e svolgere improvvisamente la coda ampia e lunga 5 volte il corpo, tanto sottile da lasciar vedere le alghe in trasparenza. E il piccolo corpo duro, spruzzato d'oro rosso tra il nero fumo delle scaglie, portava a un'estremità l'enorme fioritura della coda. E dall'altra gli occhi arborescenti, simmetriche escrescenze contorte e massicce sul fragile stelo che fluttuavano lievemente ai due lati del muso piatto. $160 la coppia, figlia mia, dichiarò Tam con orgoglio. Non se ne trovano di più belli in tutto il mondo. La bellezza dei pesci mi aveva turbata e non riuscivo a parlare. Rimanemmo a lungo a guardarli attraverso le pareti di vetro della vasca, godendo entrambi dello spettacolo. «Io vedo sempre le persone come pesci», mormorò Tam, parlando quasi fra sé. «Non tutti si comportano allo stesso modo quando vengono isolati in una vasca, divisi dal resto del mondo. Vi sono pesci di ogni genere, quelli socievoli che tendono sempre a riunirsi, come il pesce angelo, e quelli che combattono fra di loro, feroci come tigri e altrettanto stupidi. E poi ve ne sono alcuni come questi, rari e bellissimi, con grandi occhi di crisantemo e code simili a un mantello di nebbia. Certe persone assomigliano a questi pesci, si isolano e diventano mano a mano inaccessibili alle legioni dei mediocri e alle orde degli stupidi. Al riparo dalla curiosità e dagli assalti dei maligni, fanno sbocciare nella loro solitudine strane fioriture mentali e lentamente si rendono inadatti a coabitare coi loro fratelli più comuni. Per me, Ernest Watts è un pesce dorato appartenente a una specie bellissima e rara, non è come gli altri. Annuì distrattamente, poiché la mia mente era occupata da un unico pensiero. Quando Mark tornerà da Formosa voglio mostrargli questi pesci, voglio mostrarglieli perché sono belli e perché voglio che i suoi occhi vedano tutta la bellezza che esiste al mondo.